Subito i dati sull'affluenza alle urne, Andrea Viali. Sì, Anna, l'affluenza è in calo, il dato non è ancora quello definitivo, ma mancano ormai soltanto pochissime sezioni. Alle 12 per le comunali ha votato il 13,6% degli aventi diritto rispetto al 14,5% delle precedenti elezioni. La flessione è più marcata alle provinciali, dove l'affluenza si è fermata attorno al 9,3%, contro il 10,9 della volta precedente. La prossima rilevazione sull'affluenza verrà effettuata alle 19. Sono circa 13 milioni, lo ricordiamo, gli italiani chiamati alle urne oggi e domani per rinnovare le amministrazioni di oltre 1.300 comuni e 11 province. Le sfide più attese, le ricordiamo, sono quelle di Milano, Torino, Napoli e Bologna. Oggi si potrà votare fino alle 22, domani invece dalle 7 alle 15, poi inizierà lo scrutinio. Da Roma è tutto. Grazie ad Andrea Viali. Ora a New York, dove alle 18 italiane comparirà davanti ad un giudice il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Dominique Strauss-Kahn, incriminato per tentato stupro nei confronti di una cameriera dell'albergo dove alloggiava. È stato arrestato mentre era su un aereo in procinto di partire per Parigi. Doveva partecipare domani alla riunione per il salvataggio dei conti della Grecia. Sentiamo Alessandro Merli. Le prime pesanti ripercussioni dell'arresto di Dominique Strauss-Kahn si faranno sentire sulla guida del Fondo Monetario e sugli sforzi per tenere a galla diverse economie europee, oltre che sulla scena politica francese. Strauss-Kahn doveva incontrare oggi il cancelliere tedesco Angela Merkel, la quale, a quanto si sa, aspettava un suo parere prima di decidere su nuovi aiuti alla Grecia e sul pacchetto di salvataggio per il Portogallo. Domani il direttore del fondo avrebbe dovuto partecipare alla riunione dell'Ecofin a Bruxelles su questi temi. Il suo posto dovrebbe essere preso temporaneamente dal suo numero due, l'americano John Lipsky, che però ha già annunciato il suo ritiro a fine agosto. Intanto il consiglio direttivo del Fondo Monetario si riunirà nelle prossime ore in seduta d'emergenza per affrontare il tema dell'eventuale successione di Strauss-Kahn. Era previsto comunque che il direttore del fondo lasciasse l'incarico nelle prossime settimane per correre alle primarie socialiste per le presidenziali francesi del 2012. La guida del Fondo Monetario va tradizionalmente a un europeo, ma l'uscita di scena in modo così drammatico di Strauss-Kahn rafforzerà le richieste dei paesi emergenti per avere un loro rappresentante come numero uno dell'organizzazione. Per la politica francese l'arresto è una vera e propria bomba. Strauss-Kahn era infatti il grande favorito dei sondaggi per sconfiggere il presidente Nicolas Sarkozy nel 2012. Alessandro Merli, GR24, Il Sole 24 Ore. Avevano tutti e tre 19 anni, ragazzi, morti in un incidente questa notte a Napoli. L'auto sulla quale viaggiavano ad una curva è uscita di strada, ha sfondato una balaustra ed è precipitata per 40 metri fino quasi alla via sottostante. Causa dell'incidente, l'altissima velocità. Due uomini sospettati di appartenere ad Al-Qaeda per il Maghreb islamico sono stati arrestati in Tunisia. Erano in possesso, ha riferito la televisione nazionale tunisina, di una cintura esplosiva. E all'Angelus, nuovo monito del Papa per la Libia. Il conflitto armato ha causato un elevato numero di vittime tra i civili, ha detto il pontefice, che ha rinnovato l'appello per la ripresa della via del negoziato. Sentiamolo. Cari fratelli e sorelle, continuo a seguire con grande apprensione il drammatico conflitto armato che in Libia ha causato un elevato numero di vittime e di sofferenze, soprattutto fra la popolazione civile. Rinnovo un pressante appello perché la via del negoziato e il dialogo prevalga su quella della violenza, con l'aiuto degli organismi internazionali che si stanno adoperando nella ricerca di una soluzione alla crisi. E c'è ora il nostro speciale giro, regia Valeria Bernardi. Da me ancora un buon proseguimento con Radio 24. Un saluto da Anna Migliorati. Voci dal giro. Nuovo buona domenica a tutti con Oscar Gatto che ha vinto la tappa di ieri a Tropea con Peter Winning che conserva al momento la maglia rosa. Oggi Giro d'Italia vive una giornata particolare, si va all'attacco dell'Etna, secondo arrivo in salita per questo Giro d'Italia, e allora ci colleghiamo con Pier Augusto Stagi. Nona tappa Messina-Etna, 169 km, il Giro d'Italia affronta la seconda tappa con arrivo in salita. In verità due sono le salite da affrontare, l'Etna da entrambi i versanti. Il primo dalla località La Lenza, il secondo per arrivare ai 1892 del traguardo al rifugio Sapienza. Una tappa da 4 stelle con Alberto Contador che scalpita e Vincenzo Nibali che è pronto a rispondere, così come Michele Scarponi. Una tappa da seguire. A Messina partenza alle 12.40, quindi pochi minuti fa sono partiti con Peter Wiggins, olandese, per il quarto giorno in maglia rosa. Ringrazio Pier Augusto Stagi, ricordo che di Giro d'Italia parleremo ampiamente oggi pomeriggio all'interno di A Tempo di Sport, vi aspetto a partire dalle 16.30. Di nuovo buona domenica. Voci dal giro. Macchina nuova. Hai vinto a poker? No, ho dimezzato l'assegno di mantenimento di mia moglie. Poverina. Ma che poverina? Guadagna il doppio di me lavorando in nero. Hai bisogno di prove per cause di separazione e divorzio? Affidati ad Axerta, la prima agenzia investigativa specializzata nella raccolta prove. Scopri i vantaggi di un'investigazione Axerta anche nei casi di affido minori, concorrenza sleale e licenziamento per giusta causa. Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. Preventivi gratuiti su axerta.it. Voglio una vita comoda, voglio una vita firmata Divani Dea, voglio un divano italiano. Da Divani Dea, i giorni più vantaggiosi dell'anno. Prezzi irripetibili su tutta la collezione, solo dal 12 al 31 maggio. Divanidea.it, solo idee di valore. Gli abbiamo dato tanto, troppo, tutto. Tutto sì, ma non Credit Reform. Il gruppo Credit Reform, con un fatturato di 533 milioni di euro, è la prima società di informazioni d'Europa ed evade ogni anno più di 16 milioni di informazioni commerciali e 500.000 aggiornamenti gratuiti a 170.000 clienti. Un servizio unico, completo, sicuro. Credit Reform è la prima scelta di banche, compagnie d'assicurazione e grandi aziende. 800 425 325 o creditreform.it. Ha conquistato la tecnologia. Selettore di guida Alfa DNA. Ha conquistato la sicurezza. La più sicura della categoria con 5 stelle Euro NCAP. Ha conquistato l'efficienza. Sistema Alfa Start and Stop. Io sono Giulietta e sono fatta della stessa materia di cui sono fatti i suoi. Giulietta Progression, con motore turbo da 120 cavalli. Alfa DNA, cerchi in lega e clima a 18.700 euro. Prezzo vero Alfa. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo dei concessionari aderenti. Venite a provarla anche sabato. Con la nuova stampante Xerox Color Cube 8570 in ufficio un complimento dopo l'altro. Anna, la qualità di queste stampe a colori è eccezionale, anche su carta riciclata. Eccone uno. E com'è facile da usare, senza inchiostro o cartucce che sporcano. Eccone un altro. Belle le tue scarpe nuove. Visto quanti? Acquistando Xerox Color Cube 8570 hai 200 euro di rimborso e un sacco di complimenti in ufficio. Per condizioni e info vai su xerox.it/promo. Xerox, ready for real business. Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma! Chiedo asilo. Oh, bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Bene, lascia stare bentornati, vabbè, bentornati un momento. Si dice bentornati quando sì. Una cosa si ripete. Stavolta. Ma noi ci ripetiamo ormai da settembre, vabbè, sulla frequenza di Radio 24, tutti lo sapranno. Qui infatti alle... c'è la folla che scalpita. Alle 16.45 da lunedì al venerdì, anche alle 22.45 da lunedì al venerdì. Bene, finito lo spot. No, è per dire che è la prima volta che ci presentiamo invece al Salone del Libro. La prima volta. Anche perché il Salone del Libro c'è una volta all'anno. Quindi Drago, il verbo, ascolta un attimo, noi è da settembre che parliamo e diciamo che l'Italia ormai insomma sta regredendo a un grande asilo. E dove tutti sono dei bambini. È vero, e quindi allora, i libri servono per crescere, però bisogna partire un po' da. Però spesso. Diciamo, cominciamo veramente dall'inizio. Dall'inizio. Allora, la lettera A. La A di albero, no? La A di Albatros. La A di Albanberg. La A di bambino Albisola. Oh, la A di bambino Albisola. Guardalo lì. Ma sei sempre il cappello in testa. No, ma bambino Albisola perché? perché lo sai, perché ti... No, lo sapete voi che non mi piace quando storpiate il mio nome. Storpiate il mio nome. Mi chiamo Alberto? Sì, lo sappiamo. E allora? Facci lo spelling. Allora, lo devo dire una volta per tutte. Sì, lo spelling. Io mi chiamo. Vai. Alberto. Oh. Oh. A. L. B. E. R. T. O. A come autistico. L di lunatico. B di bambino come M. E come esagerato. R come rimbambito. T come te. E poi O come occhio. A di ansiolitico. L di lisergico. B come bunga bunga. Bingo bongo bamba. E come elementare. Grande, grazie, grande. Grazie. O come orchidea, vediamo. O sì. Come O come ombrello. Vabbè, pazienza. Ombrello, qui dice. Vabbè, come... come autistico, vabbè. Ma cosa dicevo? Allora, bambino Alberto, un bambino alla fiera del libro si diverte. Giusto. No? È anche giusto che, sia, che tu sia venuto qui, perché i bambini hanno l'ingresso... obbligato quasi dalle scuole, no? Eh sì, dice, fanno, entrare oggi... fanno entrare i cani, hai visto? Ho visto. Quindi i bambini. Poteva anche entrare il nostro. Cani. Comunque io no, non è che sono venuto qui di mia spontanea volontà. C'era una gita sociale. Sì. Organizzata all'asilo. Dell'asilo. È una gita culturale. Così. E lo fanno sempre, bravo. Dicono. E mi hanno obbligato, Ah, obbligato proprio. Pistola e quindi siamo venuti qua in gita. Vabbè, ho capito. Sei venuto tu con la tua classe. Con tutta la classe, bellissimo. No, sono qua da solo. Ma come? Tutti si sono iscritti. Poi stamattina alle 5 in Piazza Castello al Pullman e non c'era nessuno. A Milano. Piazza Castello però c'è anche a Torino, però a Milano no, è la piazza. A Milano. Milano, Milano alle 5 del mattino 5 del per mattino. Arrivare qui a che ora? Allora, c'eravamo io, i miei genitori che mi hanno portato. Sì. Gino, il bidello. Sì. Che lui guida il Pullman, Ah, ecco, fallo. E suor Dentona. Ah, beh, certo. Anche lei. Che è qui, non l'abbiamo vista, però vabbè. Però, visto che ormai non c'era nessuno e la gita doveva partire, e chi paga? Non lo so, come? Chi paga? Tu come chi paga? E i miei genitori ne ho pagato per tutti. Ma come? Vabbè, perché ormai avevano organizzato tutto, il pullman da 60 persone, ero solo io. E i tuoi genitori? E i miei genitori hanno pagato. Per 60? Vabbè. Sì, ma non perché pagano sempre, perché è una gita culturale, secondo loro. Ma tu, quindi i tuoi genitori però sono rimasti a Milano? Loro sì. Ah, ok. Io sono qua con Gino, cioè Gino non c'è, mi ha lasciato l'entrata, poi è andato via. E suor Dentona, scusa? A Suor Dentona, no, non c'è più. No, aspetta. No, non nel senso tragico, Allora, stamattina siamo partiti, i pullman, io, Gino e Suor Dentona. Sì. E siamo partiti, vai, autostrada. Sì. Gino è un po' impaziente, perché Gino quando guida, beve. Ha la bottiglietta di Fernet sotto il sedile. In più, Suor Dentona voleva farci cantare canzoni di chiesa. Ah, cosa cantavate? A lei, a Gino. Festa con noi, Signore, la sera. Possiamo fare un coro di questo? Facciamo. Dai, allora. Resta con noi, Signore. Pensa che bastava andare una volta al catechismo e l'ha imparato. Non la sapevo, cos'è il passo? Vabbè, comunque. Vabbè, comunque a Gino sta roba non andava bene. No. Quindi, primo autogrid dell'autostrada, Gino inventa una scusa. Signora, madre superiore, ha un bisogno impellente. Dico, vabbè, Gino, fermati. Beh, giusto. Entriamo nell'autogrill. Sì. Lui scende. Andiamo nell'autogrill. Poi vedo che parlotta con Suor Dentona. Signora, Suor Dentona, guardi, c'è un problema di farmacia, insomma. Come? Vada di là. Come? La signora è scesa giù. La suora. La suora, la signora. E Gino è scappato via. Mi ha preso per la mano e siamo andati in pullman. L'avete tipo pane tulipani? No, ma Gino mi ha detto che la signora, che si era così, era indisposta, rimaneva lì. Ah, all'autogrill. E quindi siamo ripartiti in autostrada. Cioè, in sostanza avete lasciato Suor Dentona all'autogrill. Diciamo così. Quindi adesso è l'autogrill lei? Oh boh, se non se n'è andata, sì. Magari è andata in mezzo alla strada, vabbè. Poi, torniamo a bomba. Partiamo. Sì. E Gino, che Gino è uno che ne sa tante, Facciamo una... bambino Alberto, facciamo la scorciatoia. Usciamo dall'autostrada. Una strada deserta, non c'era niente. Solo noi. Sì. E ogni tanto, a qualche angolo, qualche paracarro, c'era un falò. Ma un falò. E delle signorine. Alle 6 del mattino. Erano proprio era l'ultimo servizio. No, ormai sarebbero state le 7. Quello era l'ultimo servizio. Tu sai di cosa si parla. Ma no? Tu neanche. Di cosa stiamo parlando? No? Cos'è? Il falò, le signorine. Io so solo che Gino si è fermato 4-5 volte. Ci abbiamo messo 6 ore per arrivare a Torino. Vabbè, adesso ci siete, però, no? Vabbè. Sì, tra l'altro, se ci muoviamo, è anche meglio. Cerved Group, il punto di riferimento per un business sicuro e competitivo. Vi presenta Strade in diretta. Sul tratto veneto della 4 ci sono code per un incidente risolto all'altezza dell'innesto per la 13 in direzione di Venezia. Sulla tangenziale di Bologna si rallenta per incidente tra lo svincolo 7 bis statale 64 Ferrara e lo svincolo 8 via Michelino verso la 14 Adriatica. Sulla 22 del Brennero ci sono code per il traffico intenso in direzione dell'Austria tra Bressanone e Vipiteno. Incolonnamenti dovuti al traffico anche verso la Svizzera sulla 9 tra Como, Montelimpino e Chiasso. Infine ricordiamo che per la nona tappa del Giro d'Italia da Messina all'Etna ci sono in corso chiusure sulla statale 114 orientale Sicula e lungo la statale 120 dell'Etna e delle Madonie tra le province di Messina e Catania. Ed è tutto, torniamo tra mezz'ora. Promo 24. Da oggi le piccole e medie imprese che privilegiano l'aereo per gli spostamenti dei propri collaboratori hanno un'opportunità in più. Alitalia, Air France e KLM hanno ideato Blue Biz, l'accordo di incentivazione che fa accumulare Blue Credits da spendere per l'acquisto dei biglietti successivi. Ogni Blue Credit vale un euro, così è facile sapere quali biglietti si possono ottenere acquistando le tariffe disponibili senza limitazioni di posto. Inoltre, mentre l'azienda accumula Blue Credits, i viaggiatori guadagnano miglia sul proprio conto 1000 miglia offline. Blue. Con Blue Biz risparmiare sui voli è semplice, basta scegliere Alitalia, Air France o KLM. Maggiori informazioni sui siti delle rispettive compagnie. Bambino Alberto! Ecco, andiamo qua. Oddio, cosa no, c'è? No, dove siamo qua? Al Lingotto? Ah, beh, c'è subito la prima, pensavo che esitassi. Torino, Vianizio, niente, no, Lingotto. Lingotto, esatto, e quindi? Lingotto uguale? A me lo chiedete. Sì, Lingotto uguale Fiat? Fiat uguale? No, ma lui non sa niente. Niente. Fiat uguale Agnelli, una volta. Ma no, adesso... Elkan, ma no. Comunque, il Lingotto è un pezzo, voglio dire, qui il tema della fiera è la memoria, sì. Ma è anche i 150 anni, quindi 150 libri che tutto, hanno fatto l'Italia. Vabbè. Però il Lingotto è uno dei 150 palazzi, almeno. Cioè, sì, dovessi... 150, cioè, 150 condomini d'Italia, so, dici. Ha fatto la storia d'Italia il Lingotto. No? Lo so, sì. Quindi io suonerei che un vino del Lingotto. Insomma, l'inno del Lingotto, quindi... No. Sarà l'inno nazionale forza, italiano. Beh, forte, su, fai bello forte. Che... Cos'è? Cos'è questo? Io mi aspettavo l'inno nazionale italiano, siamo al Lingotto, fabbrica italiana, automobili. I più esperti riconosceranno subito che non è meno male che Silvio c'è, non è quella roba. No, no. L'inno canadese. Ma come l'inno? Ma chi lo conosce l'inno canadese? E poi perché l'inno canadese? A Savassandir. Ma come Savassandir? Siamo a Torino. Siamo al Lingotto. Fiat siamo Agnelli. No, Fiat... Agnelli, è lì che sbagli. Cioè fino a Fiat va bene, poi dopo Agnelli sbagli. Perché Fiat... Ah, il mio idolo. Cioè? Marchionne. Ma come? Canadese. Ma no, ma sì... Sì, è il tuo idolo, però non è che dobbiamo. Cioè, la celebrazione è per il Canada, non è per Marchionne. Non è Marchionne, io preferisco Marchionne. Vabbè, è l'uomo dell'anno. Che non so, è l'uomo del secolo, è quello che sta. Insomma, sì, con il suo coraggio, ha fatto delle operazioni. La Chrysler, le macchine italiane in America. Radio 24, qui sanno tutto di quelle robe lì. Cioè, se arrivi tu. E non vado bene. No, perché vabbè. Parli della Fiat, di Chrysler. Cioè, comunque. Siamo a casa sua, quindi qui ci sarà Marchionne in questo no, momento. Vedi, no, sbagli, perché adesso non è neanche più casa sua. Per quello ti dicevo il Canada, perché Marchionne dovremmo fare una cosa. No, ormai è Detroit casa sua. Ma no? Detroit non è in Canada. Sta ma veramente venendo appunto, fuori un casino di quelli. Quindi, va bene. Okay. Dovessimo parlare di Marchionne, dovremmo parlare di Detroit. E a Detroit, sì. Tu mi insegni, sì. Non so perché, ma... Cosa succede? È la patria dell'automobile 50 anni fa, okay, però chi se ne adesso frega. Ormai fai patria... un salto oltre dal punto di vista culturale. Qui siamo, voglio dire, letteratura orale, capisci? Ah, cosa c'è a Detroit? C'è il rap. Il rap. A Detroit. Oh, il infatti rap. C'è anche Eminem che è diventato testimonial della Chrysler. Perché lui è di Detroit. Quindi Marchionne e Eminem si danno di gomito. Marchionne, lui solo Peter Gabriel, Steve Hackett, Phil Collins. Quando va in Svizzera è quella roba lì. Quando va a Detroit lui va con Eminem. Sì. Hai visto il film 8 Mile? Tutti l'hanno visto, no? Nessuno, vabbè, nessuno, non importa. Comunque è un bel film sul rap a Detroit, eccetera. Cosa succede? Che Marchione va a Detroit con Eminem, sì, con una macchina Chrysler, sì, che assomiglia a una Fiat. Cioè, purtroppo per la macchina per Chrysler, sì. No, purtroppo per la macchina Fiat. No, purtroppo per la macchina Fiat, certo. Peggio quello che dice adesso. Cosa fa? Vanno con Eminem a rappare. Cioè, vanno in queste stanzoni un po' underground, fumose, e fanno il famoso, le famose rap battles. Ah, ah, ecco, le gare di sì, le gare di oratoria, diciamo. Esatto, di una perché volta non sono da sottopoli, qui siamo solo del libro, stiamo parlando mimeticamente di letteratura. No, perché certo, certo, il rap si lega alla tradizione orale del racconto e della storia e ha, ha diverse forme molto anche artisticamente nobili, come appunto lo slam poetry, che arrivano da lontano. Però Marchionne e Eminem, che si danno di gomito, vanno su questi palchi e si sfidano. Quindi Marchionne, arrivato a Detroit, ha dovuto subito, come imparare, dire, improvvisarsi un rapper, un freestyler. Mamma, cosa mia, succede? Succede che freestyling? No, eccolo. Alberto, sapevo, perché è, essendo un vabbè, bambino, quando si parla di freestyling, beh, certo, le nuove tendenze, i bambini le beccano, cioè, tutte. Allora, quindi, vabbè, tu, perché tu il freestyling sai, no? Tu sei... Lo padroneggio il freestyling. Ah, ecco, padroneggio. È una disciplina. Vabbè. È un modo di esprimerci, bene, di noi giovani. Tra il pubblico qualcuno, no, sì, ha già sentito qualche freestyle del, freestyling del bambino Alberto, immagini, sì, in trasmissione. Un sacco di, no, quali sono gli argomenti? Devo spiegare cos'è? So. Devi spiegare com'è, perché spiega, là ho spiega, visto dei no. Deve. Vabbè, allora, spiega, c'è bene, una base ritmica. C'è una base ritmica. Importante, deve essere esatta. Esatto. Sì. E poi il freestyler, che in questo caso sarei io, sì, improvvisa, no? Cioè tu mi dai un tema, dico, parlami del suono del libro. E io faccio un freestyling. Sì. Parole, beh, a ritmo, in, con la base. E in rima. In rima. In rima anche, importante. Però sì, per il salone del libro non è l'argomento, perché negli scantinati di Detroit ci si sfida. Marchionne e Eminem si guardano negli occhi, prima uno e poi l'altro, rimando e rappando, se ne dicono di tutti i colori. Vabbè, se Marchionne non c'è a Detroit, No, io lo sfiderei. No, potrebbe, no, ma beh, fai finta che potrebbe che essere qua. Marchionne. Cosa fai col serpentone? Sì, che sia Marchionne. No, è una prerogativa di Zedorf questa. Ah, vero. Allora, facciamo che, come facciamo se Marchionne che... fosse qui. Sì. E io faccio il freestyling. Fai il freestyling contro Marchionne. Contro Marchionne. Poi Marchionne contro, senza cattiveria. Vabbè, se cosa fai? Solo perché. Vabbè, chi te la manda la base? La base me la manda Gildo, eh. Ma non, no, Gildo, Gildo non esiste, Gildo. Allora, questa storia della non esistenza di Gildo, vieni, vabbè, qui, deve vieni finire. Allora. Va bene, Alberto, vieni qua. Dov'è, guardami, Gildo? Guarda. Allora, Gildo? Gildo è un tuo amico immaginario. Non esiste. Non importa. Ma, allora, allora, allora, adesso parte la base e la mette Gildo, quindi ma, vuol dire che Gildo esiste. Ma, Gildo, ma, allora, stavolta usiamo la 7. Mi raccomando, non sbagliare. Dove vai? Ma, dove vai? Guarda. Non t'aspetto. Ma Gildo, allora, dov'è? Comincia a andare, vai. La 7, eh? La 7. Sì, perché tu smetti la 6. Io Gildo non l'ho ancora sentito. Dov'è Gildo? Vai con la 7. Vai. Gildo, okay. Gildo. È la 7, sei sicuro? Ah, c'è anche Gildo, Gildo. L'MC nero, vai. Allora, battiamo le mani a te. Vai. Vediamo. Dai, Gildo. Senti un po', Marchionne. Sai cosa ti dico? Sarai anche un grande manager, ma ormai sei un po' bollito. Tu sei il re dell'auto, nessuno più di te. Ma da quando ci sono io, gli applausi sono per me. Ora stai a Detroit, senza i tuoi operai. Che si fanno il culo mentre tu non ci sei mai. Vabbè, ma... poi quando arriva John Egan, che ti dice, signor Marchionne, ma queste auto... Gildo, la base! Ma cos'è? Allora! No, aspetta, però era interessante. No, infatti, arrivava... Ho capito, ma se qua mi rovina la base, io, sembra che vada fuori tempo io. Aspetta, arrivava John Elkan, 23 anni, da Marchionne, 60 anni, che cosa gli diceva? Senta un po', allora, Marchionne. Senta un po', signor Marchionne, ma qui le macchine si vedono o no? Signor Elkan, no. Come e allora non va bene. Vabbè, ma tanto cosa c'entra Elkan? Non viene giù Elkan, esatto, a fare il rap. Dai, c'ha la moglie, i figli. Rap, dai. Dai, allora vai avanti. Fai ripartire, vai, la base. Vai. Soprattutto Gildo dov'è? Gildo? E Gildo qui, è la dov'è? Base? Ecco, vai, allora, vai. Gildo, Gildo. Ma no, Gildo. Gildo. Beh, c'è Gildo. Non ho capito. Gildo. Ma devi fare il rap, no, contro Marchionne. Gildo, tu sei... No, no, è Marchionne. Ma allora questa base non funziona più. Vabbè. Io adesso sembra che perda il filo perché non sono bravo, ma... No. Allora. Vabbè, ma pensa adesso se arrivasse Marchionne che arriva e fa... Bambino, Alberto... Sei solo un bambino, cosa potrebbe dirti? Io qui a Torino, bambino. Cosa a Torino? Vabbè, così, cosa non so, fare... Bambino Marchionne, io sono un bambino, ma tu porti sempre quel maglioncino. Vabbè, porti il maglioncino, grande, anche ai matrimoni. Grande freestyle. Ma non te ne accorgi che sembri un bamboccione? Ma no, ma no. Allora, e poi allora, e quando arriva Elkan, e adesso la base è andata via ancora. Allora, io smetto, perché poi dopo la fine, la figura la faccio io. Perché nessuno sa che c'è Gildo che sbaglia a mettere la base. Ma se Gildo non si sente, perché Gildo non gli fai non dire qualcosa? Gildo! Volentierissimo! Hai sentito che esiste. Allora, ma sei tu che fai, se dice lavoro. Volentierissimo lui, vuol dire che è tutto vabbè. Ok per vabbè. Lui, perché poi ha sbagliato tutto. Allora. Vabbè, volentierissimo, io andrei oltre. Non so, tu hai qualcos'altro da aggiungere su questa roba del freestyling? Beh, più, cioè, ho fatto il freestyling live, più no, di così scusa, che lo devo fare. Però sai che a quest'ora si arriva... Vabbè, allora. All'ora della merenda. No, merenda, cosa hai mangiato? Qua di fianco c'è l'autogrill. Gli autogrill qui, eh. Allora, la solita rustichella. Vuoi un po' di Cenovis? Vuoi il magari, ma... il formaggino? Non è che poi ci saranno i finocchi cotti, Vedi, ma tu ce l'ha. No, qualsiasi cosa lo sapete, per favore. Ma, certo. Allora. Ma bambino Alberto, siamo. Ditemi la verità. Non siamo all'asilo, non siamo alla mensa dell'asilo. Ho capito, ma io sono in gita sociale dell'asilo, quindi mi nutriranno loro. Ma magari Gino bambino Alberto la schiscetta, non so. Qui sento anche un po' di un odorino strano. Sì, sì. E sì, perché io praticamente ovunque vada, io sti finocchi cotti, e quell'odore acre. Ma no, acre. Che mi sale nel naso. Ma cosa? Vabbè. Ce l'ho sempre, anche qui ci sono. Ma non è altro. Allora, quindi sempre meglio il cielo, visto i finocchi cotti. Infatti, anche secondo me. Anche se non so cos'è. Però, infatti. Però, pensate allora... che io per sto incubo dei finocchi cotti ho scritto anche una canzone. Ma sì, lo sappiamo, la grande allora. Canzone. La vogliamo sentire. Dai, la vogliamo sentire. Un applauso per la canzone applauso. Prima che inizi. Dai, vai, vai, vai. Nell'aria si insinua un profumino. Mi stuzzica il naso. Cos'è? Sa un po' di letame, mi viene una fame immensa, aspetta, non me. Eccomi in fila ad aspettare, si fanno scommesse sul menù. Polpette. Chi dice fagioli, chi dice banane, chi dice biscotti, coniglio di cane, ma il cuoco in vacanza. Finocchi cotti sono un fatto collettivo. Collettivo. Cielo asilo. Allora, professor senatore, allora, non esiste la sua perizia. Non esiste, sei un buffone, sì. Sei un fanfarone, sei un bugiardo e vai in giro a fare le sceneggiate perché hai bisogno di prendere lo stipendio. Caro me, Cruciani, te capisci? Così, ok. Finisce così, sì. Abbiamo parlato con i suoi ex dipendenti. No, finisce, finisce, che tu sei un buffone, caro il mio Cruciani, tu fai lo stronzo. No, volevo scusarmi col nostro amico Cruciani, quello di Radio 24, perché sì. Si è beccato una botta di stronzo, invece era Casciari. Quando deve stronzo Casciari, non Cruciani. In ogni caso, la colpa è sempre di Cruciani. Tutti i giorni alle 18.30, La Zanzara, su Radio 24. Caro me, Cruciani! I miei soci, il primo non aveva smalto, agilità. Il secondo non ha proprio resistito al lavoro. Oggi ho scelto Ford Transit, una garanzia per 5 anni. Ford Transit, socio inseparabile. Da oggi con garanzia Ford Protect, 5 anni o 200.000 km, disponibile su tutta la gamma. Transit Connect 1.8 TDCI con clima e radio CD a 9.750 euro. Per tutti. Certi mercati sono irrequieti, difficili da domare. In tanti cercano di avvicinarli. Noi li cavalchiamo da anni. Anche nei mercati remoti del mondo c'è un gestore UbiPramerica pronto a farti cavalcare le opportunità per i tuoi investimenti. Se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi, fatti guidare da chi conosce la strada. UbiPramerica, tu alla guida dei tuoi risparmi. UbiPramerica ti aspetta a Rimini, a IT Forum, il 19 maggio alle 14. Attenzione, prima dell'adesione, leggere il prospetto informativo. www.ubipramerica.it. Ciao Claudio, vieni a giocare a tennis questa sera? Grazie, ma in questo periodo non ho un attimo di tempo. Anche tu sei un commercialista, come fai? Hai rinunciato a qualche cliente? Al contrario, li ho aumentati e offro anche nuovi servizi. Oggi uso Business Pass, lo studio professionale esteso. Più clienti, meno costi, zero problemi. Prima di rinnovare il canone del tuo vecchio software, prenota la visita di un informatore Business Pass e incontra la vera innovazione. 800 41 42 43 o passepartout.net. Romantico, no? Due commercialisti nel loro studio a lavorare sullo stesso computer. No, perché accenderne un altro costo. A quest'ora del giorno. E passare a tutto più semplice web di utilità? È l'offerta di energia elettrica online dedicata ai liberi professionisti. Prezzo unico ogni giorno 24 ore su 24. Vai su utilita.com/radio24 e schiarisciti le idee, casa nuova. Nonostante la più grande crisi del nostro tempo, ogni giorno è una sfida che devo vincere. Milioni di artigiani e piccoli imprenditori lavorano. Se non ci fossero quelli tosti come noi che davvero rischiano in proprio, che fine farebbe questo paese? E producono. Sì, è anche orgoglio. Affrontare il mondo, innovare, competere, dare lavoro. Sono donne e uomini pieni di coraggio. È l'Italia che sostiene l'Italia. CNA è al loro fianco. Chiunque ce l'abbia fatta da solo, non era solo. CNA e le imprese. Valore d'insieme. CNA.it. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona giornata agli ascoltatori di Radio 24. La perturbazione che nella notte ha raggiunto il settore alpino e il nord-ovest oggi porterà nuvole e piogge anche insistenti al nord-est e raggiungerà anche gran parte del centro con fenomeni in Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Sarà accompagnata da piogge anche forti ed aria più fresca, tant'è che sulle Alpi orientali tornerà anche la neve al di sopra dei 1400-1500 metri. Situazione ancora buona al sud, ma con nubi in aumento e prime piogge in arrivo in nottata. Le temperature oggi sono previste in sensibile calo al nord in Sardegna, diminuzione più contenuta invece al centro, ancora caldo al sud. I venti tenderanno a rinforzarsi dappertutto. E con questo è tutto, per maggiori dettagli consultare il sito meteo.it. Il mio papà fa l'architetto e da quando ha il nuovo smartphone con le mail può lavorare anche da casa. Il problema è che vuole sempre giocare con me, ma io non ho tempo. Passa a Vodafone Partita IVA. Puoi scegliere la soluzione giusta per la tua attività con l'aiuto di un consulente dedicato. Con Full Optional Extra hai BlackBerry Carve 3G, mail, internet e più di 2000 minuti di chiamate a soli 69 euro al mese. Più servizio e più risparmio. Vai su Vodafone.it o chiama l'800 127 777. Vodafone. Impossibile, imbattibile, inspiegabile. Cosa può fare il 5 per 1000 contro il cancro? Possibile, battibile, spiegabile, curabile. Aiutaci ad eliminare le prime due lettere della parola incurabile. Scegli di devolvere il 5 per 1000 all'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Basta inserire il codice fiscale di AIRC nella tua dichiarazione dei redditi. Chiama il numero verde 800 350 350 o visita il sito AIRC.it per il codice fiscale. Ok, adesso dimmi con un tono più istituzionale GDF Suez. GDF Suez! Ma perché alzi la voce? Perché sono pieno d'energia. Ho capito, però questa volta dai, scandisci per bene le parole, su. GDF Suez! Oh, finalmente, eh? Vai avanti. GDF Suez è un grande gruppo internazionale che mette sempre il massimo dell'energia in tutte le sue forme, eolica, solare, da fonti tradizionali. Bravo! Per saperne di più visita gdfsuez.it. Sai chi ci guadagna con Altromercato? I produttori, l'ambiente, tu. Nei prodotti Altromercato trovi la qualità e tante storie vere. Acquistandoli concorri a un'economia di giustizia. Cerca botteghe e punti vendita su altromercato.it. Altromercato, equo, buono, solidale. Pordenone Fiere presenta Samuplast, decimo salone delle macchine e tecnologie per le materie plastiche, dal 18 al 21 maggio. L'unica manifestazione per il settore della plastica in Italia nel 2011 è alla Fiera di Pordenone, dal 18 al 21 maggio. Samuplast.it. Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, non potevamo naturalmente mancare l'appuntamento col Salone del Libro a Torino, come del resto Radio 24 sta seguendo da diversi giorni, con molte trasmissioni in diretta. Anche noi oggi parliamo di libri da questo grande tempio dei libri che è il Salone del Libro di Torino. Anche oggi grande folla, grande pubblico, saluto anche il pubblico che è qui con noi e saluto la prima nostra ospite che è Serena Vitale. Voi sapete che quest'anno il paese ospite di questa manifestazione, di questa edizione, è la Russia e quindi ho chiesto proprio a Serena Vitale, che è la maggiore studiosa di letteratura russa del nostro paese, che è stata nostra ospite qualche settimana fa quando abbiamo parlato del suo ultimo libro A Mosca, a Mosca, di illustrarci un po' quelle che sono le novità, le tendenze, le ultime novità che vengono dal mondo della letteratura russa, che è un mondo che sta dando delle grandi sorprese anche nel campo della letteratura contemporanea. E quindi benvenuto a Serena Vitale. Buongiorno. Prima domanda, allora, professoressa Vitale, quali sono appunto queste nuove tendenze? Che cosa sta offrendo di nuovo la Russia in questi anni alla letteratura? Molte cose. Normalmente si pensa che non essendoci più la censura, ho sentito ieri parlare, non essendo più la censura non c'è più la grande letteratura. Non è vero, semplicemente non fa più scandalo, ma c'è un panorama estremamente vasto, estremamente interessante rappresentato qui. Abbiamo gli scrittori, diciamo così, della vecchia generazione, ma mi ucciderebbe Lyudmila Ulitskaya se sapesse così, cioè scrittori già affermati come Ulitskaya, che io considero un classico pur avendo credo la mia età. C'è Sakhalov, che è stato un mito, il Salinger russo. E poi c'è una rivelazione della generazione di mezzo, che Lyudmila, che Yelena Cizhova, una donna straordinaria di San Pietroburgo, che ha scritto Il tempo delle donne, libro bellissimo. E poi i giovanissimi, che rappresentano una tendenza, loro si autodefiniscono postmodernisti, e sono curiosi soprattutto per questa loro volontà di, anche per la intonazione, l'inclinazione ideologica, per lo più nazional-bolscevichi, cioè si muovono le cose in Russia. E si muovono molto, molto di più di quanto se ne sappia in Occidente. Quindi la letteratura contribuisce a dare un quadro molto reale, molto approfondito di quelli che sono questi scontri che ci sono anche nell'evoluzione politica, sociale di quel grande paese. Decisamente sì, non capisco perché gli osservatori occidentali stentino a capire questo. Le opere, appunto, come, non lo so, i giovani che sono venuti per Liepin o Yelizarov, che sono proprio di tendenza neo-nazional-bolscevica, ma che cosa vuol dire queste cose? Riflettono, uno parla della guerra in Cecenia naturalmente, un altro tenta di rivalutare chiaramente il passato sovietico, ma sono tutte idee che fermentano e si muovono. Allora, andiamo con ordine. Abbiamo citato due autori che non sono stati pubblicati recentissimamente in Italia. Comunque il primo è Sasha Sokolov, La scuola degli sciocchi, pubblicato da Salani, 14 euro, 220 pagine, tradotte da Margherita Krepax. L'altro titolo è Daniel Stein, traduttore, di Ludmilla Uliskaya, pubblicato da Bompiani, 22 euro, 560 pagine, tradotto da Emanuela Guergetti. Invece Serena Vitale ha fatto un riferimento a un libro recentissimo che è appena uscito e che ha avuto un successo enorme in Russia, anche un successo sorprendente perché nessuno si aspettava questo grande successo del libro, che in italiano si intitola Il tempo delle donne di Yelena Cizhova, è pubblicato da Mondadori, 15,60 euro, 230 euro, tradotto da Denise Silvestri. Abbiamo la storia di una madre, Antonina, una madre sfortunata che ha una figlia fuori dal matrimonio, Susanna, la quale viene allevata da tre vecchie, sembrano quasi tre fate, direi. Tre parche, Arianna, Glicheria e Eudokia. Naturalmente cerco di dirlo in italiano perché non ho la padronanza di Serena Vitale con la lingua russa. Siamo a Leningrado alla fine degli anni 60, quindi un periodo di passaggio, e ripeto, questo libro è stato un grande successo in Russia, un successo condiviso da Serena Vitale. Cominciamo a dire non condiviso dalla maggioranza dei russi, perché la lotta per il Booker è stata strenua all'ultimo colpo di critica. E si può ben capire, mentre la Cizhova, che tra l'altro è al suo quinto romanzo, primo in Italia, noi abbiamo proprio le copie a staffetta in pratica, sono uscito così, è una scrittrice che assolutamente ricostruisce, ma non con realismo, direi con una sorta di lirismo fantastico, l'atmosfera e la lingua degli anni 60 e 70, i meno conosciuti in Italia. Noi conosciamo attraverso i grandi come Shalamov, come Grossman, di cui è appena uscito l'altro libro, conosciamo gli orrori sargenizi, gli orrori staliniani, ma l'epoca quotidiana dell'Unione Sovietica, dell'URSS, brezhneviana, la conosciamo poco, direi. E questo libro, attraverso sprazzi di lirismo, queste tre nonnine aiutano la giovane venuta dalla campagna, sedotta e abbandonata, anche con l'inganno nei confronti del potere, a evitare che la bimba vada in un orfanotrofio, cosa che sarebbe stata la fine. È un libro delizioso. Abbiamo parlato, ha citato Grossman. Grossman è stato una delle rivelazioni, credo, nel corso degli ultimi anni, la riscoperta di questo grande autore, di questo straordinario libro che è Vita e Destino. Grossman, come sapete, è un grande scrittore che visse fra il 1905 e il 1964. Questo suo capolavoro, Vita e Destino, che è stato pubblicato l'anno scorso, 2 anni fa, da Adelphi, in Russia fu assolutamente censurato, addirittura la polizia segreta cercò la carta carbone sulla quale era stato battuto il libro, e il povero Grossman fu messo al bando. Successivamente Adelphi di Grossman ha pubblicato Tutto scorre. Adesso è uscito il libro al quale faceva riferimento Serena Vitale, Il bene sia con voi, 254 pagine, 19 euro, tradotto da Claudia Zunghetti, che è una raccolta di novelle. È una serie di racconti scritti tra il 1943 e il 1962. Siamo nel pieno della persecuzione che l'autore subisce per il suo capolavoro, appunto Vita e Destino, e qui troviamo tanti dei suoi temi. Allora, chiedo a Serena Vitale, come riaccostarsi a Grossman? Perché riaccostarsi a Grossman? Per dovere etico, per dovere letterario e per dovere etico. Cioè, è uno dei grandi del Novecento, la cui grandezza è tanto... Il suo romanzo, quello per cui Vita e Destino, per cui è stato assolutamente perseguitato, come ricordava, gli sono state tolte le cose, è una narrazione assolutamente epica, forse il Tolstoi del Novecento, io lo chiamerei davvero il Tolstoi del Novecento. E lo stesso Grossman, che pure non era una persona sprovveduta, era convinto di scrivere una cosa che sarebbe passata, non si capisce. Certo, il muoversi della scena tra la battaglia di Stalingrado, un lager nazista, obbliga a confronti che forse alla censura dispiacevano. E sicuramente la confisca del libro è costata la malattia che poi portò il nostro Grossman alla morte. Questi sono racconti che rivelano, tra l'altro, il Grossman giornalista, il Grossman Hemingway. Lui fu corrispondente di guerra, fu tra i primi ad entrare con l'Armata Rossa a Berlino, quindi aveva questo stile creatosi nella lunga esperienza di corrispondente che poi invece diventerà tolstoiano. Un autore quasi contemporaneo di Grossman, di cui esce un libro recentissimo in Italia, è Gaito Gazdanov, vissuto tra il 1903 e il 71, che partecipò agli anni epici della rivoluzione, però dalla parte dell'Armata Bianca, gli antibolscevichi, per poi andare esule a Parigi, dove lavorò come operaio, come tassista, e ci lascia una cronaca di questa sua vita un po' derelitta nel libro Strade di notte, che è pubblicato da Zandonai, 202 pagine, 20 euro, ed è tradotto da Claudia Zonghetti. È stato definito questo autore, una specie di Nabokov senza Lolita, almeno così lo definisce nella prefazione del libro lo scrittore Dragan Belicic, che è uno scrittore serbo e che considera questa riscoperta di Gazdanov come una delle grandi riscoperte di questi ultimi mesi. E in effetti, in questa cronaca nelle strade di Parigi abbiamo dei momenti malinconici, dei momenti molto ironici che danno effettivamente il quadro della solitudine, anche in certi momenti della disperazione di questo autore lontano dalla sua terra. E naturalmente non possiamo dimenticare l'appuntamento con i più piccoli, che voglio proprio aprire in questa finestra. Il confettino. Vi ricordo che è uscito di Anton Chekhov Muso di Volpe, e sono 14 racconti dedicati ai bambini e illustrati da Tatiana Hautmann. Il libro è pubblicato da Donzelli, 158 pagine, 22,50 euro, tradotto da Lila Grieco. Quindi abbiamo appunto una serie di racconti di Chekhov che hanno per protagonista gli animali e che sono appunto rivolti in particolare agli scrittori, ai lettori più piccoli, ai ragazzi. Per i genitori appassionati della grande letteratura russa, segnalo il libro di George Steiner, Tolstoi e Dostoevsky, che è stato pubblicato da Garzanti, 354 pagine, 13,50 euro, tradotto da Cristina Moroni, nel quale appunto abbiamo uno studio sulla differenza fra Tolstoi e Dostoevsky. Chiediamo a Serena Vitale, lei chi preferisce? No, è come il gioco della torre, preferisco gettarmi io, assolutamente. Se proprio fossi sulla torre, Dostoevsky, va. Comunque è una ristampa, questo è ormai sì, un sì, classico. È una ristampa, però volevo segnalarlo, certo. Di un grandissimo critico. Ecco, perché Dostoevsky? Perché per tanti anni non ce l'hanno fatto leggere. Allora, per esempio, le lettere di Dostoevsky sono state pubblicate soltanto a fine perestroica, rivelano anche molto del... Tolstoi veniva imposto, mettiamoci che sono delle ragioni anche, come dire, di idiosincrasia, veniva imposto dal regime sovietico come modello del realsocialismo, figuriamoci. Ma come si fa a dire due scrittori così? E Gogol dove lo mettiamo? Cioè, non mi faccia queste domande. Ecco, ma di questa grande tradizione, che eco c'è nella letteratura moderna russa? Tutti. Per esempio Sakhalov diceva ieri Gogol, Petrushevsky, Ulitsky, Tolstoi. Cioè non c'è scrittore, anche a parte i giovanissimi di cui abbiamo parlato, di cui ho dimenticato Sanaev che ha scritto un bel libro, non seppellitemi dietro il battiscopa, a parte questi giovanissimi trentenni, diciamo, non c'è scrittore che non possa fare i conti con la grande letteratura. Non esiste la Russia senza la grande letteratura, ed è Pushkin, ed è Gogol, Dostoevsky, Tolstoi, Chekhov. Quale letteratura? Forse la francese dell'Ottocento ha dato tanto. Del resto, appunto, non esisterebbe la moderna letteratura senza l'apporto dei grandi scrittori russi. Allora ringraziamo Serena Vitale. Grazie. E passiamo adesso la linea alle informazioni sul traffico. Strade in diretta. Sulla 22 del Brennero ci sono 2 chilometri di coda per traffico intenso tra Bressanone e Vipiteno verso il confine di Stato. Traffico intenso anche sulla 23 Palmanova-Tarvisio, c'è 1 chilometro di coda in uscita alla barriera di Ugovizza verso l'Austria. Infine segnaliamo che per lavori la 14 Adriatica resterà chiusa questa notte dalle 22 alle 6 tra Fano e Marotta in carreggiata sud, quindi in direzione di Ancona. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento con le strade in diretta tra mezz'ora. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrub, veniamo adesso alla seconda parte della nostra trasmissione in cui parlerò all'inizio di una novità intesa come una nuova collana che viene inaugurata dalla casa editrice Salerno. Questa nuova collana si chiama Aculei ed è con noi l'autore di uno dei primissimi volumi di questa collana, cioè Franco Cardini, che ha pubblicato Cristiani, perseguitati e persecutori, appunto pubblicato da Salerno, 186 pagine, 12,50 euro. Naturalmente Franco Cardini, come sapete, è un grande storico, un grande medievalista, e inaugura appunto questa collana che vede come altri titoli Faccia da Italiano di Matteo Sanfilippo, è appena uscito in occasione proprio del Salone di Torino, Luxuria, Eros e Violenza nel Seicento di Oscar di Simplicio, e I Templari e la Sindone, Storia di un Falso di Andrea Nicolotti. Perché questa nuova collana? La casa editrice spiega che ha voluto con questo nome Aculei lanciare una serie di volumi che vogliono far discutere, che vogliono appunto aprire un dibattito sollevando anche dei temi che magari possono essere particolarmente scabrosi. In particolare, per esempio, nel libro di Sanfilippo Faccia da Italiano si parla degli emigranti, ma soprattutto di noi quando noi italiani eravamo emigranti, e che eravamo anche noi vittima, quando anche noi eravamo vittima di molti stereotipi che molto spesso erano gli italiani stessi a coltivare. Infatti scrive Sanfilippo che tanti stereotipi sugli espatriati trovano origine o conferma nei testi prodotti dalla stessa nazione da cui sono partiti, cioè l'Italia. E poi c'è questo volume di Franco Cardini che invece parla delle persecuzioni e dei cristiani. I cristiani sono perseguitati o persecutori? E il tema che si pone Franco Cardini è raccontando e ricordando come persecuzioni e violenza non sono incidenti di percorso, soprattutto quelle attuate da parte dei cristiani, ma la conseguenza di alcune premesse. premesse che Cardini rintraccia soprattutto nell'inizio stesso della Chiesa fino a Giustiniano. Con Giustiniano avviene la svolta, perché il cristianesimo diventa religione di Stato e i pagani, che erano stati persecutori, diventano a loro volta perseguitati e devono svolgere i propri riti in clandestinità. Naturalmente poi Cardini parla di tanti altri aspetti venendo fino all'oggi. Allora chiediamo a Franco Cardini l'interesse principale di questo tema, l'attualità di questo tema oggi, che i cristiani appaiono più spesso perseguitati che non persecutori, come raccontano purtroppo le cronache di questi mesi. Questo libro si deve più che a me, o in una certa misura perlomeno, al direttore della collana, Alessandro Barbero, medievista, romanziere, premio Strega, eccetera, il quale è un uomo acuto, non privo di una qualche malvagità, perché ha affidato un tema come quello cristiani perseguitati, e fin lì va bene, siamo tutti d'accordo, e persecutori a un cattolico credente, praticante, osservante, quale io sono, fidando naturalmente sulla sua onestà intellettuale. Questo libro io ho accettato la sfida di Barbero non solo per amicizia o per fiducia, ma anche perché mi sembrava fosse una buona occasione per rimettere in discussione in certe idee reçues, come dicono i francesi, anche idee reçues da me stesso, almeno fino a un certo punto. Voglio dire che oggi sono presenti molti titoli anche proprio in questo salone del libro, esiste una tendenza a pensare che i cristiani in genere, e magari in particolar modo i cattolici, in questo momento siano vittime di persecuzioni, il che è vero, basta aprire i giornali, basta sentire la televisione, ci sono stati episodi raccapriccianti, però tutto questo, che porterebbe secondo alcuni a una certa cristianofobia, che probabilmente c'è, ma che fuori dell'Occidente è il riflesso del fatto che fuori dell'Occidente cristianesimo e Occidente stesso sono ancora identificati, mentre noi occidentali sappiamo che questo è un gravissimo errore, ma è difficile spiegarlo ad alcuni musulmani, spiegarlo ad alcuni indù. E allora in generale noi occidentali, che anche se non siamo cristiani o cattolici, addirittura quando siamo laici, atei, anticlericali, però è fatale che ci si identifichi nella cultura cristiana, nella morale cristiana, entro certi limiti, ci si sente coinvolti sempre quando viene attaccato il cristianesimo. Noi dall'interno lo possiamo attaccare perché fa parte della nostra cultura, ma attaccarlo dall'esterno si sente che è un attacco alla fortezza occidente, alla fortezza Europa. Ci si dimentica magari che molto spesso le persecuzioni anticristiane sono originate da un odio che è antioccidentale, non propriamente anticristiano. Ma il punto è questo, che rischia di prevalere, e anche in un pubblico di una certa cultura, l'idea che mentre per esempio l'Islam, l'ebraismo, per non parlare dell'induismo o dello shintoismo, hanno in se stessi un elemento di legittimazione della persecuzione o della violenza, pur essendo religioni che esse stesse hanno una grande venerabile dimensione di pace, invece nel cristianesimo questo non ci sia. Il cristianesimo è una religione di pace, può essere che qualche cristiano abbia tralignato, ma si è sempre trattato di incidenti di percorso. E gli incidenti di percorso sono un po' troppi, e questo mi ha indotto a pormi alcune domande, che sono appunto quelle del libro. Ecco, quindi il libro vuole rispondere a queste domande, ma soprattutto vuole cercare di svelare questi idee reçues, questi stereotipi. Un grande stereotipo nel corso del Novecento è stato anche il dibattito, e ha arricchito molto il dibattito sull'ordinamento politico-economico, e da questo punto di vista vi segnalo una riscoperta che viene pubblicata proprio in occasione del Salone del Libro, e cioè un classico del pensiero liberale, politico-economico del Novecento, La via della schiavitù di Friedrich von Hayek, il grande economista che ebbe il premio Nobel per il 1974, di cui adesso Rubettino pubblica un'edizione abbreviata. C'è con noi Alberto Mingardi, che è il direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni, tra l'altro Bruno Leoni era proprio un autore torinese, e gli chiediamo quindi l'importanza di questo libro, piccolo ma prezioso. Questo piccolo libro uscito per Liberi Libri è molto interessante perché è l'edizione abbreviata, scritta, preparata da Reader Digest nel 1945, della Via della Schiavitù. La Via della Schiavitù è il libro più famoso di Hayek, è quello che gli è valso fama in tutto il mondo. È un libro che è stato scritto all'epoca perché Hayek pensava che la battaglia per la libertà vinta dall'Occidente contro la Germania nazista sarebbe stata invece a rischio, fortemente a rischio, in politica interna, cioè che in qualche maniera, come recita una famosa citazione di Hume che Hayek fortemente richiama, la libertà non è mai persa tutta in una volta. Lui pensava che in quegli anni il sistema di controllo dell'economia messo in atto nei paesi occidentali avrebbe portato a perdere la libertà anche nelle democrazie anglosassoni e nei paesi dell'Europa occidentale. Questa edizione è molto interessante perché è un'edizione abbreviata, molto più chiara e molto più leggibile dell'edizione originale. Basti tenere presente questo. Hayek scrive La via della schiavitù, che viene pubblicata in America dall'Università di Chicago. È un libro che vende grosso modo 2.000-2.500 copie. Quando il Reader Digest prende il librone e lo condensa in questa versione brevissima e molto più frizzante alla lettura, Hayek, che era partito dall'Inghilterra per arrivare in America e fare delle presentazioni in circoli modesti e girare aule universitarie, si trova a New York in uno stadio circondato da 3.500 persone che avevano letto questa versione abbreviata e che volevano assolutamente venirlo a sentire. Per questo è un libro molto importante, perché nella storia del pensiero politico del Novecento è forse uno dei pochi veri successi di massa. E poi è importante che venga pubblicato in Italia, dove la fortuna di questo libro in particolare è stata una fortuna molto limitata, perché fu pubblicata negli anni 50, quando certo la cultura era molto diversa. È stata una storia molto accettata, il libro era piaciuto moltissimo sia a Benedetto Croce che a Luigi Einaudi. Il figlio di Luigi Einaudi non lo volle pubblicare, uscì per Rizzoli, ma rimase una lettura semiclandestina fino di fatto agli anni 90, quando fu ripubblicato per Rusconi grazie a Dario Antisi. Allora ringrazio Serena Vitale, Franco Cardini e Alberto Mingardi. Ricordo un'iniziativa editoriale del Sole 24 Ore: dal prossimo 22 maggio il quotidiano pubblicherà la domenica, e soltanto la domenica, proporrà ai lettori la collana Racconti di autore. Sono 20 uscite, si comincia con Ernest Hemingway, con Sotto il crinale e altri racconti, e poi a seguire altri 19 grandi autori della narrativa contemporanea. Ringrazio Claudia Carusi in redazione, Laura Vanossi e Pietro Lacorte in regia. Ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre le nostre trasmissioni, e vi do appuntamento a tutti voi, anche al pubblico qui presente, alla prossima domenica. Buona giornata a tutti. Possiedi personalità. Acqua San Benedetto ti dedica il suo tè verde, sano, leggero e con un gusto unico, come sei te. Tè verde San Benedetto, unico come te. Ciao Fax, come va? Sempre peggio Legalmail. Professionisti e imprese hanno scoperto tutti i tuoi vantaggi. Legalmail, sei la posta elettronica certificata, sicura, affidabile e completa. Segnali via SMS la posta in arrivo, metti a disposizione un call center specializzato, conservi tutti i messaggi nell'archivio di sicurezza. Pure la raccomandata ha capito che la nostra epoca è quasi finita. Anche perché a novembre arrivano le scadenze di legge per le imprese, che possono averti subito su internet. Certo, facile, veloce e sicuro su legalmail.it. È un prodotto InfoCert. Non siamo una famiglia, siamo una ditta. Eppure da un momento all'altro alcuni di noi rischiano il posto. Vincitore di un Golden Globe e di 4 premi Oscar. Il discorso del re, il film dell'anno. Dall'11 maggio in DVD e Blu-ray Eagle Pictures. Bentornato da Euronics, Napoleone. Caccia gli sconti fino al 20%. HP Office Jet 4005 con fax più cartuccia nero aggiuntiva a soli €67,90. Fino al 29 maggio, Euronics, il cliente nel suo regno. Ok, l'imbragatura è a posto, l'elastico è allacciato ai piedi, perfetto, al mio tre puoi lanciarti dal ponte, ok? Ok. Se vuoi divertirti ancora di più, stacchiamo l'elastico e ti lanci senza, Ma no, aspetta, dove vai? Senza sicurezza c'è poco da divertirsi. Subaru Forester Widget 2011, 4.000 euro di vantaggio e un allestimento più ricco. Da 25.980 euro, anche con finanziamento fino a 20.000 euro in 48 rate da 469,25 euro. TAN 2.9 TAG 3.96, fino al 31 maggio, salvo approvazione istituto erogante, info negli showroom aderenti. Stefano Bruno, presidente cantina sociale di Casorzo. In oltre 50 anni di storia vinicola nel Monferrato ci siamo confrontati con l'altalenante andamento dei mercati. Esportare è sempre stato un nostro obiettivo. Grazie all'introduzione di un export specialist Comac abbiamo definito strategie e contatti commerciali in Europa, Stati Uniti e Cina, e oggi affrontiamo questi mercati con uno spirito diverso. Diventa anche tu un'azienda di successo con Comac. Comac 800 123 640. Comac www.aziendedisuccesso.it. Ogni giorno 22.000 bambini muoiono per cause prevenibili e curabili. Ogni giorno lavoriamo in 156 paesi del mondo perché vogliamo che questo numero arrivi a zero. Ma ci serve una mano e soprattutto una firma. Il tuo 5 per 1000 all'UNICEF diventa acqua potabile, cure mediche, alimenti terapeutici, zanzariere antimalaria. Non ti costa un centesimo e cambi per sempre il destino di un bambino. Dona il tuo 5 per 1000 all'UNICEF. unicef.it/5 per 1000. Numero verde 800 74 5000. Campagna sociale. Signorina, sa che ore sono? Sì, le 3. E adesso che ore sono? Ma insomma, sempre le 3. Perché continua a chiedermi che ora è? Perché non vedo l'ora che inizi la festa dell'usato delle chilometri zero Fassina, sabato 21 e domenica 22 maggio. Pensi, centinaia di vetture di tutte le marche e un buono sconto di 500 euro per l'acquisto. Incredibile, vero? Ah, adesso ho capito. Faccio come lei. Vengo anch'io alla festa dell'usato e delle chilometri zero Fassina, sabato 21 e domenica 22 maggio. Con Domus di Maggio, immagina come unire due continenti. Progetta e invia la tua idea. Partecipa al challenge che ti porterà fino a Londra. In più, sul numero di Maggio, Jürgen Mayer e il suo provocatorio capolavoro architettonico a Siviglia. Domus è in edicola e su domusweb.it.